Ladri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Federico. Puntata speciale quella di oggi, puntata ovviamente natalizia, ma speciale non solo per quello, puntata speciale perché abbiamo un sacco di ospiti qua in studio. Tantissimi, sì. Veramente. Due sono vestiti di rosso, tra l'altro, ma non sono dei babbi natali, sono dei figli natali oggi, perché sono due topo reporter di Topolino che sono venuti a seguire con noi questa puntata natalizia. Leon, di 9 anni, ciao Leon. Ciao Leo, ciao Federico. Come stai? Bene. Sei un po' emozionato, eh? Sì. Lo so. E poi c'è Lucrezia invece, di 11 anni, ciao Lucrezia. Ciao. E non solo, al loro fianco c'è Danilo, che è uno dei disegnatori di Topolino, ciao Danilo. Ciao. A tutti, che oggi riuscirà in radio a dare immagine a un programma radiofonico che è, insomma, complicato, eh? sì ci sto già provando. Tra l'altro Matteo ti sta guardando con occhio curioso, perché anche Matteo lo sappiamo che, insomma, con la penna ci sa fare. Sì, solo che a me non mi avete mai fatto disegnare qua, sono molto invidioso. Non ancora. Puntata quindi dedicata al Natale, che è, insomma, Matteo, per noi papà è comunque una data impegnativa, perché ci sono i regali, perché c'è Babbo Natale da accogliere la sera. Assolutamente, ma aggiungo che secondo me la persona che ha inventato l'espressione vacanze di Natale probabilmente non aveva figli. È vero. Insomma, sono giorni impegnativi, sono giorni di festa, sono giorni dove bisogna essere buoni. Sarà proprio la parola buono che ci accompagnerà in questa puntata. Leon, cosa significa essere buoni? Che è questa cosa che i papà sempre chiedono. Devi essere buono. Cosa vuol dire per te? Non fare azioni brutte, fare azioni belle, comportarsi bene, un po' difficile spiegarlo, è un po' difficile farlo? Spiegarlo, no, in effetti forse farlo per fortuna è più semplice. Lucrezia, cosa vuol dire essere buoni? Essere gentili, o anche comportarsi bene, non fare azioni brutte. Sembra quasi facile essere buoni. Certo, ma guarda, sai, poi dipende dai punti di vista. Per esempio, per noi, per me che sono un papà, essere buono in questo periodo dell'anno significa non arrabbiarmi con mia figlia che si inguatta tutte le palline dell'albero di Natale, per dire. Quindi vedi che ognuno c'ha le sue, insomma. Insomma, oggi capiremo un po' meglio cosa significa essere buoni, cosa significa essere buoni per i nostri figli e soprattutto quali sono invece le aspettative di noi papà. Iniziamo con un ospite a cui chiederemo: e per te cosa significa essere buono? Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus watch. When Jesus watch. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, my Jesus washed, he washed my sins away. E adesso sì che siamo davvero in clima natalizio con questa bellissima la voce di Sergio Silvestre. Lo abbiamo conosciuto, ma abbiamo il modo di ascoltarlo in una nuova veste, che è una veste appunto natalizia, perché è autore di questo bel progetto Big Christmas. Ciao Sergio, benvenuto a Padri Eterni. Ciao. Ciao Sergio. Ciao ragazzi, ciao. Ti emozioni ad ascoltarti in veste? grazie. Tanto piacere, buon Natale a voi. Buon Natale a te. Allora, un bel progetto, hai ricantato grandi successi della musica. Con noi ci sono Leon e Lucrezia, due giovanissimi ascoltatori. Leon, so che hai una domanda. Ciao, subito per... ciao ragazzi, ciao. Ciao Sergio, ciao, ma perché hai composto un CD di canzoni natalizie? Guarda, io volevo fare una cosa molto divertente, purtroppo dopo la mancanza di mio padre, volevo ricordare il Natale, che ho vissuto tantissimi anni con loro, quindi volevo regalare questa emozione alla gente che mi seguono, anche a voi, cioè mi piaceva tantissimo fare una cosa all'americana, diciamo. Grazie. Quindi un po' di allegria, però anche un po' di tristezza, di quella tristezza bella che è un po' un omaggio, ecco, in questo caso al tuo papà. Sì, guarda, la cosa bella di Natale, c'è sempre, c'è tutte le emozioni, che puoi essere un po' malinconia, un bello, divertente, dipende, c'è sempre quell'emozione diverso, quindi c'è un po' di tutto nel disco, ti dico subito, c'è il Hallelujah che è un stato al cuore, o Over the Rainbow, c'è la canzone che non è molto natalizio, però l'ho dedicato a lui perché lui lo suonava sempre a Natale. Dopo le cose divertenti, sai che sono Jingle Bell Rock, Coming to Town, quindi c'è tante cose, tante belle cose nell'album. Ho fatto così perché volevo la gente che prova il mio Natale, diciamo. Sergio, senti, tu hai vinto Amici, giusto? Quindi sei vincitore di un talent, no? Thomas Edison diceva che il talento è per l'1% ispirazione e per il 99% traspirazione, cioè sudore, no? Tu sei d'accordo con questa cosa? Cioè col fatto che ci sia questa scintilla che poi assolutamente va coltivata con impegno per ottenere i risultati? Certo, ma guarda, il talent è una porta, cioè da Amici Maria ha dato non solo un talent, una scuola dove impari, dove devi studiare tantissimo, era una macchina da guerra, diciamo, cioè è stata un'esperienza molto bella. Io vedo Amici non come un talent, però come una scuola. Io ho imparato tantissime cose, non solo con la musica, anche personalmente, no? Ho conosciuto dove posso andare dopo il mio limite, cioè tante belle cose. L'impegno ci sta sempre, devi impegnarti, mi sono impegnato tantissimo, diciamo il risultato è stato bene, molto bene, sono contentissimo per questo, sì. Insomma, mi sembra un ottimo insegnamento anche per i nostri ragazzi che sono qua con noi. Un'ultima domanda, Sergio, che è la domanda centrale di questa puntata natalizia: cosa significa per te essere buoni? Guarda, per essere buoni significa magari la cosa che mi diceva mia mamma sempre, di buttare il zucchero, che significa non buttare il sale, che significa che devi andare tanto amore alle persone, cioè quando magari le persone si buttano il sale devi buttare il zucchero, quindi essere buono e deve sempre trasmettere buone cose, il zucchero, diciamo, la dolcezza nella vita, perché adesso... sai che è difficile ormai con questo mondo caotico, però la bella cosa di che noi abbiamo il potere di dare tutte le cose belle del nostro, no, di noi, scusa. Un'ottima dritta, buttare zucchero. Grazie davvero a Sergio Silvestre. Ciao e buon Natale. Ciao, buon Natale. Ciao, buon Natale. Now I heard the wall was a secret chord that Dita played in prison long, but you don't really care for music, do ya? But it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fold, the major lift, the baffled king composing high. Puntata speciale dei Padri Eterni legata al Natale. Adesso ci fermiamo, il traffico e poi ancora qua. Padri Eterni. And so this is Christmas, and what have you done? Another year over, and the new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. this is Christmas. For weak and for strong, for rich and the poor ones, the world is so wrong. Padri eterni, in questa puntata dedicata al Natale, che è comunque un'occasione, no Matteo? Perché è vero che ci sono più ore che si possono passare con i propri figli, occasione di gioco, sì, occasione per guardarsi un film insieme. È comunque un momento dove i tempi sono davvero più lenti. Sì, sì, ma infatti è paradossalmente questa è la ragione per cui a volte il Natale ci mette un po' in difficoltà, nel senso che all'improvviso abbiamo tutto questo tempo da gestire, tutto questo tempo da riempire di cose da fare insieme, anche semplicemente stando lì a non fare niente, ma stando tutti nello stesso posto. Mi interessa poi particolarmente il tema della nostra puntata, no, che è l'essere buoni. Ecco, su questo essere buoni io vorrei citare una frase che mi diceva sempre mia nonna, la dirò in dialetto veneto, proprio perché ha senso così. Mia nonna mi diceva sempre: ci rispetto vol, rispetto porta. Che vuol dire chi rispetto vuole, rispetto porta. Mi sembra un bel augurio e una bella maniera di essere buoni questa qua. Anche, insomma, stando attenti a non stressare troppo su questa questione dell'essere buoni. Leon, Lucrezia, che i nostri top reporter qua con noi oggi in puntata, a volte viene a dire basta chiedermi sempre di essere buono, sono io, o invece vi sentite comunque in dovere di essere buoni, Leon? Così. Un po' stufi, un po' in dovere. Un po' sì, però per esempio cioè, ti impegni ad essere buono perché papà, perché sono i genitori a chiedertelo, o senti che è una cosa buona essere buoni? Prima di tutto perché lo sento e poi anche per un po' dei genitori. Così, insomma, per farli felici. Lucrezia, è così? Io, a me lo chiedono e cerco di impegnarmi ma non ci riesco. Ah sì? Dai, io amo Lucrezia perché lei... Ma l'importante è impegnarsi, no Lucrezia? Poi sì. Il risultato, insomma, può essere quello che è, l'importante è metterci del nostro. E quindi mi stufo perché non ci riesco, appunto. E quindi continuano a ripetermelo, però io non ci riesco. E quindi, insomma, alzi bandiera bianca ed è giusto. Al tuo fianco, oltre a essere disegnatore di Topolino, Danilo, anche il tuo papà che sorride. Adesso ti faccio la domanda in quanto padre. Ogni tanto stressiamo troppo con questa richiesta dell'essere buoni? Sì, però insomma bisogna anche convivere, noi accettiamo che loro a volte siano un po' meno buoni, però loro anche si devono. E tu con questa penna in mano sei buono, stavi facendo un paio di ritratti in questo momento, hai papperizzato i conduttori di questo programma, vero? Sei stato buono? Insomma, è venuto fuori qualcosa. Sì, fa vedere. Questo è un Matteo. Voi, allora, ve li faremo vedere anche sui nostri social e avrete possibilità di vedere queste immagini su Topolino. C'è un Matteo Bussola ben pettinato, stai bene, vestito da papero. Molto. Sì? Sì, sono fatti abbastanza in fretta. Sì, no, però insomma mi piace anche questo Federico Taddia con l'occhiale e il becco ben pronunciato. Insomma, la bellezza di Topolino, che insomma è la magia, sa bene concretizzare significato di questa parola. Continuiamo a cercare di capire cosa significa essere buoni. Lo abbiamo chiesto a un po' di ragazze e un po' di ragazzi che sono passati qui in visita a Radio 24 e ci hanno donato i loro pensieri. Per me essere buoni è una persona che non pensa solo a se stesso o ai soldi, pensa anche agli altri e pensa anche alle conseguenze delle azioni. Secondo me una persona buona è una persona altruista che comunque sarebbe anche in grado di sacrificare una propria libertà o comunque qualcosa di personale di suo per il bene comune. Una persona buona pensa sempre di poter essere un'altra persona, cosa può succedere anche a lei, quali sarebbero le sue emozioni e sentimenti. Una persona buona è una persona a cui non interessa solo di se stessi, ma interessa anche delle altre persone che la circondano. Essere buoni, aiutare la gente, essere tutti insieme. Aiutare le persone. Far sentire meglio gli altri. Sacrificare una cosa e darla all'altra persona. Anche se una persona pensa di essere buona, alla fine è veramente difficile esserlo. È una persona che sa equilibrare l'altruismo e l'egoismo. Una persona che non solo pensa a se stesso e che pensa agli altri. In generale una persona buona è una persona che cerca di far felice gli altri e che si dedica al bene comune. Una persona buona è una persona che tratta bene gli estranei, che è gentile o che semplicemente svolge bene ciò che deve fare e che ragiona e pensa prima di agire per non causare del male. E questo è quello che ci hanno detto le ragazze e i ragazzi, insomma, hanno le idee chiare su cosa significhi essere buoni. Ma che poi, sai Fede, pensavo questa nostra ostinazione, no? A continuare a chiedere ai bambini che cosa significa essere buoni, ma soprattutto quando chiediamo loro di fare i buoni. Ecco, a volte ho l'impressione che siamo anche quasi un po' ipocriti noi adulti, perché in fondo chiediamo loro di fare o di essere una cosa che noi non riusciamo ad essere quasi mai. Forse perché desideriamo, speriamo che diventino persone migliori di noi. E adesso invece è il momento di essere cattivissimi. Vabbè, li avrete riconosciuti, i Minions, in una delle loro migliori interpretazioni. Tra l'altro, insomma, cogliamo l'occasione di avere le loro voci per ricordare il nostro Fabio Cantadori, che li adorava, li amava, e quindi insomma è bello immaginare di avere catturato un suo sorriso in questo momento. È il momento di parlare di buoni, ma soprattutto di cattivi, e lo facciamo con la voce di Cattivissimo Me. Lo conoscete il film, sì, vero? Sì. Mi piace. No, ma è un vero cattivo? Diciamo, più o meno. Più o meno cosa significa? Spiritualmente no, ma... Quindi è spiritualmente buono, ma nei fatti è cattivo? Un po'. Mi sembra un'ottima descrizione. La sua voce qua con noi, diamo il benvenuto a Max Giusti. Ciao Max! Ciao ragazzi! Ciao Max! Ciao. Buon Natale intanto! Allora è proprio così, è uno spiritualmente buono, ma poi cattivo nelle azioni, Gru? Ma sì, Gru è abbastanza buono. Oddio, non farmelo dire perché mia mamma mi voleva molto cattivo, però a parte questo, oltre che non ho conquistato la luna, mi devo combattere anche con tutti questi milioni, anche con le tre figlie. No, è una vita strana quella di Gru. Gru è un po' quel... Guarda, un altro mio personaggio direbbe, sbagliando l'atrismo, è un cattivo sui Genesis, lo dico. Certo, certo. No, ma Gru è... Diciamo, è uno che voleva attenzione, attirare l'attenzione dei genitori. Spesso accade quando si è bambini, no? Che i nostri genitori siano un po' distratti o dal lavoro o da troppi impegni. Adesso anche un po' dagli iPhone, no? Perché a volte dei genitori che stanno con la sull'iPhone più dei loro figli. E a volte per attirare l'attenzione dei nostri genitori si fa qualsiasi cosa, perché poi... è quello che cercano i bambini, affetto. E Gru, visto che aveva un papà molto cattivo, diciamo, voleva essere il più cattivo di tutti per essere accettato da sua mamma, insomma, ma è un cartoon. Certo. Ricordiamo che in questo Natale è uscito il DVD di Cattivissimo Me 3. E sì, molto figo. Molto figo. E tu sei anche in tournée con Cattivissimo Max. Cioè, hai scelto questo aggettivo per te. Ma no, ma l'ho scelto perché in realtà, sai, se c'è una cosa che ti fa ridere, magari molto spesso la risata è quella vera, quella pura, ha sempre dato un po' di cattiveria. Non c'è una cosa che ti fa più ridere di uno che scivola incautamente su una lastra di ghiaccio, una buccia di banana. Anche l'uomo più buono del mondo ride quando accade una cosa del genere. Quindi c'è sempre un po' di spirito di cattiveria. No, stiamo finendo la tournée di Cattivissimo Max, tra un po' debutterà a Roma invece Va tutto bene, che è il nuovo spettacolo dal 20 febbraio in poi. Ma nell'atmosfera natalizia devo dire che la cosa bella proprio di Cattivissimo Me, di Gru e dei Minion è questo mondo dove si fonde il mondo degli adulti con quello dei bambini. È un po'... E questa è la cosa che mi affascina molto di Cattivissimo Me. Non è un cartoon classico, un po' melenso, con lo stereotipo anche del cattivo che mette paura, ad esempio, no? Perché Gru è cattivissimo, cattivissimo, più di lui non c'è nessuno, ma non ti mette mai paura. Invece ricordo Christmas Carol, non so se l'hai visto. Certo. Io l'ho visto da un'ultima delle ultime versioni al cinema, avevo già 45 anni, ho una paura fottuta, queste atmosfere dell'Inghilterra tutta cupa, questo insomma, no non mi piace aver paura, non mi piace. Max, senti, io mi identifico molto con Gru perché anche la mia vita è cambiata quando sono arrivate tre bambine a cambiarmela, e mi piace perché il messaggio poi, no, di Cattivissimo Me è che alla fine tutti possiamo essere cattivi o buoni, ma la differenza alla fine la fanno le cose che ci capitano e soprattutto come scegliamo di accoglierle. Ma sì, se, assolutamente, se tu pensi, no, è di Tagnes e Margoglio, le ho prese dall'orfanotrofio e le avevo prese solamente per vendere il disco robot, e invece poi alla fine si è dimostrato che potevo essere papà anch'io, e questo è bellissimo, no, sai, nella vita, soprattutto a Natale, no, io per esempio ho imparato qualche anno fa, a Natale, a non tanto a chiamare le persone che già conoscevo, con cui facevo i Natali, quindi zii, cugini, cose simili, ma ho cominciato a chiamare, invitare quelli che sapevo che erano soli, no? Cioè quelli che sapevo che non avevano i cugini in quel giorno là, e mi sono fatto un mio team di Natale, che poi è diventato il team di Natale, di Pasqua, del primo maggio, di ogni evenienza, di tutte quelle persone che magari avevano già perso i figli, o magari c'erano i figli lontani, oppure che vivevano in un altro paese e i suoi familiari, quindi vivevano in Italia ma non erano italiani, quindi ho fatto una troupe di tre o quattro amici, purtroppo una ci ha lasciato lo scorso anno, giovanissima, e ci siamo rimasti, ma era diventata zia Mary di tutti noi, anche se lei era nata in America tanti anni fa, cioè il Natale è la condivisione. E io ho avuto una grande fortuna di fare uno spettacolo tanti anni fa, per due anni avevo fatto quasi 300 repliche, si chiama Aggiungi un posto a tavola, questo è il Natale. Questo è il Natale, e credo che questa sia la tua testimonianza del significato dell'essere buoni, che appunto condividere dei momenti ed essere anche testimoni in questo. Dici spesso ai tuoi figli dovete essere buoni? Guarda, quello che più che dicono di essere buoni sono essere rispettosi con gli altri. Ah, ok, questo. Cioè, questa è oltre a essere buoni, sì, però il rispetto è una cosa molto importante, no? C'era uno molto più intelligente di me che ha detto la nostra libertà finisce dove comincia quello dell'altro, e quindi insomma questa è un po' la regola da seguire, c'è spazio per tutti, cerchiamo di quando ci muoviamo con i nostri gomiti di lasciare lo spazio a quelli di fianco a noi, rispettare l'altro oggi è l'unica forma di convivenza possibile, ma forse l'è sempre stata, no? Rispetto all'altro è la cosa più importante che c'è, e poi la condivisione di quello che abbiamo spesso è molto molto importante. Adesso è il mondo dei, voglio farvi una domanda, quando vi sentite più felici? Quando scartate un bel regalo o quando vedete che avete azzeccato il regalo per un altro e godete in quell'attimo della faccia che fa lui quando lo scarta? Leon, preferisci ricevere un bel regalo o vedere una bella faccia nella persona che apre il tuo regalo? Di più è vedere la bella faccia di una persona, però anche fai bene, la risposta più bella del mondo. Quanti anni c'hai, Leo? 9. Okay. 9 anni, mi sembra giustissima la tua risposta, anzi la più bella che ho sentito in questa mattinata. Ciao Max, grazie e buon Natale. Ma grazie a voi, buon Natale. Buon a tutti Natale voi. Max. Buon Natale. Ciao. Ciao ragazzi, un saluto anche da me. Ciao Minion. Non ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua con i Padri Eterni. Marzo 2017. Ci collegheremo più volte con Londra per avere gli aggiornamenti. Quindi arriva questo attentato 12 anni dopo l'attacco kamikaze. Maggio 2017. In diretta. Ecco l'esito. Emmanuel Macron viene indicato presidente della Repubblica Francese con il 65%, naturalmente. Giugno 2017. Come canta nelle sue canzoni Ariana Grande. Un concerto a favore delle famiglie delle 22 vittime dell'attentato del 22 maggio che ha causato circa 60 feriti. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo. Tutti i giorni. E continueremo a farlo nel 2018 con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. Padri Eterni. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero. ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, Padri Eterni, puntata di Natale, puntata dedicata all'essere buoni, con noi in studio due topo reporter, due giovanissimi giornalisti per un'ora, per Topolino, per raccontare questa puntata. Stiamo parlando dell'essere buoni, ma Leon, Lucrezia, i bambini sono meno buoni delle bambine? C'è un po' questa idea che le bambine siano sempre buone mentre i bambini mai? Ma perché? No. Secondo me siamo tutti, cioè, dipende. Chi è buono è buono, chi non è buono è infatti buono. Non è buono. E quindi non c'è, insomma, una differenza. Esatto. Tra... Ma le mie figlie sostengono da sempre che i bambini siano molto meno buoni. Sì. Ma mi rendo conto che è una visione assolutamente di parte. Allora, capiamo quando una bambina è buona o quando una bambina è cattiva. Lo facciamo in maniera un po' provocatoria, lo facciamo però attraverso un libro bellissimo che si intitola Cattive ragazze, 15 storie di donne audaci e creative, della Sinos editrice. Diamo il benvenuto all'autrice Assia Petricelli. Ciao Assia. Ciao, ciao, buongiorno. Ciao Assia. Cattive ragazze, quando è che una ragazza è cattiva? Le ragazze sono cattive quando non fanno le brave bambine, sai, alle bambine si dice spesso comportati da signorina, stai composta, sii educata. Scusa se ti interrompo, ma io la vedo, tu no, c'è Lucrezia qua che se la ride. sì, sulla parola fai la brava signorina. Di cosa parlo? Esatto. Sì. E invece appunto si dice questo e invece... E invece capita che a volte le ragazze, le donne decidono di uscire fuori dai recinti che sono stati costruiti per loro dalla società e vengono bollate come cattive ragazze, cioè tutte le volte che cercano di assumere dei ruoli che non sono quelli, diciamo, convenzionali, che secondo la tradizione sono i ruoli che toccano alle bambine o alle donne, insomma, fare essere accoglienti, essere buone, essere pazienti, essere dolci, e invece pretendono per se stesse magari di realizzare i propri sogni, di viaggiare, di uscire di notte, di fare un lavoro che non è un lavoro che si addice ad una donna, o di vivere liberamente, insomma, i propri desideri, la propria sessualità anche. Ah sì, diciamoci la verità, dai, cioè le ragazze sono cattive o considerate cattive generalmente quando tentano di uscire dai recinti che gli uomini hanno costruito poi alla fine, no? Rivendicare i loro diritti. Nel vostro libro voi la cosa interessante, la cosa bella, l'operazione riuscita è che voi andate a illuminare alcune figure famose di donne, note o meno note, soprattutto meno note, devo dire, che però hanno con la loro vita portato un contributo importantissimo, no? All'avanzamento, ai diritti delle donne, poi soprattutto in un momento come questo in cui sentiamo parlare solamente di violenza sulle donne, no? Di donne, quindi non so, penso a Franca Viola che è una figura probabilmente non conosciuta o poco conosciuta, no? Che ha rifiutato un matrimonio riparatore dopo aver subito un abuso. Penso a Miriam Makeba, che è già molto più conosciuta, una cantante famosissima che ha contribuito anche lei con i suoi concerti, con il suo percorso, a disinnescare un pochino i pregiudizi razziali, quindi è un'opera assolutamente meritevole, per i disegni di Sergio Riccardi, ricordiamolo. Uh-huh. Assia, ma è un libro che consiglia ai papà? Assolutamente sì. Consiglio ai papà di leggerlo insieme ai propri bambini e alle proprie bambine. In realtà non è un libro per ragazze o per bambine, ma anzi è un libro che racconta anche delle figure maschili che sono un po', diciamo, al di fuori degli stereotipi. Ad esempio, ecco, tu hai citato Franca Viola, c'è stato il papà di Franca Viola che è stato colui che l'ha appoggiata tantissimo nella sua scelta di rifiutare il matrimonio riparatore. Cosa non facile in quei tempi là. Assolutamente non facile, perché all'epoca lo stupro era considerato un delitto contro l'onore, ma innanzitutto contro l'onore del padre in quanto capo della famiglia, quindi è significativo che proprio il papà si sia schierato dalla parte di Franca. Un altro papà bellissimo è il papà di Pierre Curie, che per permettere a Pierre e a Marie Curie di dedicarsi alle proprie ricerche si offrì di prendersi cura delle loro figlie. proprio per alleggerirgli un po' il carico del lavoro domestico e di cura. Quindi i nonni hanno avuto da sempre un'importanza fondamentale nella vita. Sì. Insomma, buone ragazze, perché appunto cattive ragazze, cioè hanno pensato con la loro testa, hanno realizzato e lottato per i propri sogni, e a chi diceva dovete fare le brave signorine appunto rispondevano con un sorriso come quello di Lucrezia. Grazie davvero ad Assia Petricelli, autrice di Cattive ragazze, 15 storie di donne audaci e creative. Ciao, buon Natale. Ciao, buon Natale a voi. Che cos'è lo Stato? Tanti, ma proprio tanti anni fa, i popoli si spostavano a piedi per cacciare, per seguire le mandrie di animali, per sfuggire al freddo o per cercare nuove risorse. Erano popoli nomadi. Proviamo a pensare al momento in cui un popolo trova un posto in cui si vive bene, perché c'è tanta acqua, la terra è fertile, c'è un clima mite. Ebbene, quel popolo ha trovato un luogo comodo nel quale stabilirsi per sempre. Quello che stiamo ascoltando è un cartone animato, perché in questa puntata è dedicata ad essere buoni vuol dire essere giusti, vuol dire essere responsabili, no? Lo stiamo scoprendo insieme. E c'è un progetto molto bello, molto originale, una iniziativa lanciata dall'Ordine dei Commercialisti di Torino e Provincia, che entrano nelle scuole proprio per parlare di tasse, parlare di giustizia, parlare di equità. Ne parliamo noi con Nadia Pompeo, che è referente dell'Ordine dei Commercialisti di Torino e Provincia e ideatrice del progetto. Sembra strano parlare di tasse appunto una puntata dedicata al Natale, però essere buoni è anche questo, vero Nadia? È vero, essere buoni vuol dire anche pagare le tasse, essere buoni, essere giusti. Perché noi spieghiamo appunto ai bambini che le tasse servono a tutti e servono per fare andare avanti uno Stato. Sostanzialmente questa è una lezione di legalità, di educazione alla legalità fiscale che il nostro ordine ha voluto realizzare, e noi abbiamo l'onore di diventare maestri per un giorno. Non diamo voti, cerchiamo di essere buoni, e cerchiamo di renderci simpatici, nel senso che almeno con i bambini risulteremo simpatici, perché non li interroghiamo e insomma cerchiamo di far passare un messaggio positivo. No, tra l'altro stavo pensando che è uno strano argomento, noi spesso andiamo a cercare i ponti generazionali, no? Sicuramente sì. Le tasse sono una cosa di cui noi padri difficilmente ne parliamo con i nostri figli, o comunque è un argomento che difficilmente ne parli con delicatezza o con rilassatezza. Invece in questo modo voi portate il discorso delle tasse, lo rilanciate, no? Diventa un qualcosa di cui i figli possono parlare con i loro genitori. Esattamente, l'iniziativa vuole proprio diffondere un approccio culturale positivo verso la fiscalità e verso la legalità, perché noi sappiamo che il vissuto che eventualmente possono avere i bambini in casa, noi lo viviamo tra virgolette con i loro genitori, attraverso i nostri clienti, non è mai un approccio positivo, per cui voler diffondere questa positività e far capire ai bambini innanzitutto quali sono i benefici in termini di servizi pubblici che derivano dal pagare le tasse li aiuterà a diventare degli adulti consapevoli e a volerle pagare, osservando anche sempre che i nostri soldi vengano poi spesi bene, perché il nostro lavoro parla poi anche di quello. I soldi versati con le tasse sono dei sacrifici per chi lavora, per tutti noi, devono anche essere spesi bene. Noi investiamo nei bambini sperando che nel futuro si diffonda questo messaggio positivo. In realtà la volontà è proprio distinguere il senso delle tasse dal loro eccessivo prelievo piuttosto che dal malfunzionamento dei servizi pubblici. Nadia, senti, no, il fatto di riuscire a parlare di tasse in uno dei paesi che ha uno dei più alti tassi, mi scuso il gioco di parole, di evasione fiscale al mondo, è già un gesto rivoluzionario. Ma insomma io penso che poi no, sia ora in questo paese di cominciare a far diventare un valore la responsabilità, esatto, come diceva Fede, e un disvalore la furbizia. No, quantomeno quella intesa come trarre un vantaggio personale calpestando gli interessi di tutti. Esatto. Infatti noi facciamo proprio una lezione, operativamente la nostra è una lezione che si svolge in classe. Noi andiamo in classe ed è rivolto ai bambini delle quarte e quinte della scuola primaria, quindi bambini insomma abbastanza piccoli. Investiamo proprio sui piccoli, proprio perché crescano con queste pillole, con queste idee. E proprio il filmato che voi avete, di cui avete mandato l'inizio, fa un racconto. Partiamo dal concetto di Stato, parliamo di Costituzione italiana, di diritti dei cittadini, quindi i servizi pubblici sono proprio la realizzazione dei diritti, parliamo di doveri e quindi il dovere di pagare le tasse, parliamo anche di solidarietà sociale, chi guadagna di più paga di più, chi guadagna di meno paga di meno, parliamo della necessità di chiedere scontrino e fatture, insomma degli adempimenti in maniera molto semplice, certo. Ma i bambini lo capiscono bene, e proprio lì prefiguriamo un mondo in cui nessuno paga le tasse, che non esiste qui da noi, dove nessuno paga le tasse, però se nessuno le pagasse cosa succederebbe? E poi chiediamo invece, se qualcuno non paga, che cosa succede? Gli parliamo di evasione fiscale. Certo, insomma, e quindi diventa anche una sorta di gioco di ruolo. Nadia, un'ultima domanda. Sì. A Natale, insomma, capita anche, magari si gioca a tombola, si vincono due monete, vengono anche regalati un po' di soldi, succede, insomma, è tutto legale, vero? Non dobbiamo preoccuparci, perché vedo un po' qua Leone e Lucrezia. No, quello si può assolutamente fare. Okay, poi perfetto. Nel gioco ci mancherebbe, assolutamente. È anche importante che i bambini acquisiscano consapevolezza del valore del denaro, perché poi anche il denaro dato nelle tasse, i soldi che vengono spesi, se si ha la consapevolezza del valore del denaro, rientra in questo nostro argomento. Perfetto, abbiamo salvato la tombola di Natale. Grazie Nadia, ciao, auguri. Buon Natale, grazie. Buon Natale a te. Buon Natale. Buon Natale, Nadia. Ciao. Noi ci fermiamo al momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing, in the jingle bells ring. Snowing and blowing, our bushes are fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle hearts, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. E con questo jingle bell ci avviamo verso la conclusione di questa puntata natalizia. Matteo, quando ti ho detto serve un ospite che cioè tu lo vedi e dici sì, questo è, rappresenta sì, il ma buono. Beh, ma assolutamente, ma il buono per antonomasia. Poi io lui lo adoro, oltre al fatto che insomma poi siamo compagni di scuderia, perché pubblichiamo entrambi per Einaudi, ma quest'uomo io lo adoro perché ha scalzato dal cuore di mia figlia Fedez. Adesso è lui il suo idolo incontrastato. Ma i tatuaggi anche lui così grandi? Non credo che ne abbia bisogno. Diamo il benvenuto ad Antonino Cannavacciuolo. Ciao Antonino, buon Natale. Ciao a voi. Ciao. Auguri. Grazie. E tra l'altro c'è in Lucrezia e Leon che sono tuoi fan, quindi insomma sono... Ciao, un bacione, auguri a voi. Insomma, questa cosa di Fedez e dei tatuaggi, insomma, non esploriamo, non mi sembra interessante. Invece abbiamo un po' di domande da farti. Lucrezia, parti tu? Per uno chef, che significato ha la parola buono? Bella domanda, visto che oggi parliamo di essere buoni. Per te? Buono di essere buono, perché alla fine noi facciamo un lavoro che dobbiamo creare dell'emozione con piccoli gesti, no? Allora devi essere buono, devi accarezzare, devi essere positivo. Quello. Mm-hmm. Il buono fa uscire una ricetta meglio, no? Più buona, accarezzare, dolcezza, poi il buono è tutto. Fa parte del mio lavoro essere buono, perché devi formare un team. Se formi un team che fa il bravo, hai più successo, no? Mm-hmm. Quindi insomma, per avere un piatto buono bisogna essere buoni, delicati, gentili, delicati, accoglienti, morbidi. Tipo di palla. Antonino, senti, noi naturalmente in famiglia seguiamo tutte le tue trasmissioni. Mi chiedevo, no, che cosa significa per esempio essere buono quando sei in televisione e devi giudicare i piatti di qualcun altro? Cioè, fare il bene della persona che si ha davanti quando magari non hai realizzato un buon piatto può significare essere un po' cattivo? Cattivo no, cattivo severo sì. Alla fine è sempre una competizione, no? Se parliamo di Masterchef, alla fine è logico, devi spronare per vedere se tu tiri fuori qualcosa in più dal concorrente, no? Perché vedi che ci sono, c'è una crescita pazzesca da quando arrivano a quando finiscono, oppure chi va in finale. Perciò è severo, se ci sono dei piatti che veramente sono brutti, sbagliati proprio nella preparazione, allora là diventi severo. Io quando ho trovato il piatto buono, l'ho mangiato, l'ho finito. Cioè, fanno vedere l'immagine quando mi mangio i bignetti pieni, che erano talmente belli e buoni che ne ho mangiati 3 o 4, no? L'ha fatto venire la voglia di mangiare i bignetti a tutta l'Italia, e quella è la cosa bella, no? Trovi il piatto buono, lo dici, trovi il piatto che non è buono, sei più severo, no? Certo. Alla fine io dico, pure loro non hanno rispetto, quando le persone dicono siete troppo severi, non rispettate, ma pure quando uno viene davanti e ti porta un piatto orribile, lui lo sa, mm-hmm, e pretende che il piatto te lo vuole vendere come buono, no? E allora tu diventi severo, pure lui non ha rispetto di me. Certo. È reciproca la cosa. Leon, hai una domanda cattiva. Sì, volevo chiederti, com'è nata la famosa sberla di Cannavacciuolo? Più che sberla, pacca. La pacca. È il mio modo di dire grazie, no? È di un gesto d'affetto, cioè, okay. Io ti dico preoccupati quando non ti arriva la mia pacca, significa che non ti sento e non stai facendo bene. La pacca è un segno d'affetto di me, okay, per quanto riguarda. Ma mi carica. La pacca è un augurio, è un augurio, sì. O è una cosa che fa male? È un augurio, ti ricarica, ok, corri di più. Grazie. È più buona dopo la mia pacca, andiamo a trovare. Grazie. Ma cucini mai con i tuoi figli? Cucino spesso con i miei figli, sì. Ah, bello. Perché c'è Andrea che è appassionata di cucina, c'ha 5 anni, vuole già impastare, già vuole imburrare le teglie. Stamattina siamo andati insieme nel bistro che c'ho a Novara per fare gli auguri a tutti, no? Cioè, è stata una cosa bella e lui mi segue già 5 anni. Mm-hmm. Insomma, credo che sia una bella soddisfazione da papà. Antonino, e tu quando invece dici ai tuoi figli dovete essere più buoni, cosa ti aspetti? Vabbè, sicuramente fagli capire che determinate cose nella vita si ottengono con il buono, no? Allora si fanno degli esempi, aiutare a chi ha bisogno, dare a chi ha bisogno, aiutare, tu, cioè, si cerca di creare un mondo parallelo ai tuoi figli, che non è, io dico sempre, io, loro, siamo fortunati, no? Ci sono tanti bambini che non sono fortunati, perciò lui che è fortunato nella vita dovrà sempre aiutare, quelle le cose che gli raccontiamo, e queste cose qua si possono fare solo se sei buono alla fine. Mm-hmm. Ti sei mai vestito da Babbo Natale? No. Perché già sono abbastanza grosso, immagino che un abito di Babbo Natale addosso raddoppio la mia stazza, capito? I Babbi Natale. Sinceramente ho paura, capito? Fatemi mettere una muta addosso, ma non un vestito di Babbo Natale. Grazie davvero ad Antonino Cannavacciuolo. Ciao Antonino, ti stiamo anche papperizzando. Ciao a tutti. Ciao, buon Natale. Buon Natale. Ciao. A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. È il momento dei saluti. Un grazie ad Andrea Roccabella che ci ha seguito nella parte tecnica. Un grazie a Miriam Lucchetti invece che con noi ha scritto la puntata. E un grazie ai nostri top reporter Lucrezia e Leon. Siete divertiti? Sì. Moltissimo. Ok, adesso è il momento di andare a casa e prepararsi a questa notte di Natale. Un grazie anche a Danilo Barozzi per i suoi disegni che appunto li possiamo vedere su Topolino. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast. Matteo, è il momento della lettera? È una lettera particolare, vero? È È una lettera particolare, insomma. Del resto, questa settimana a chi potevamo scrivere se non a lui, a Babbo Natale? Grande. Ciao Matteo, buon Natale. Buon Natale, Fede. Lettera aperta a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, sapessi quanto ti invidio. Tu lavori un solo giorno all'anno e questo ti basta per essere l'eroe di tutti i bambini del mondo. Noi invece, che siamo babbi normali, lavoriamo ogni giorno solo per riuscire ad essere all'altezza delle aspettative dei nostri. Il fatto è che noi non abbiamo in dotazione slitte, renne, nessun elfo ad aiutarci. E gli unici sacchi che riusciamo a caricarci sulla schiena sono pieni dei nostri sensi di colpa, perché abbiamo sempre meno tempo per stare con i nostri bambini, che vorrebbero fossimo per loro principi, cuscini sui quali addormentarsi, compagni di Lego, raccontatori di storie, sentire che siamo lì. Invece, caro Babbo Natale, noi padri siamo spesso imperfetti, stanchi, preoccupati, e in questo periodo dell'anno conosciamo a memoria il tuo numero di telefono, che agitiamo come minaccia per sedare gli eccessi di capricci. Perciò facciamo così. Visto che tu sei l'uomo dei regali, te ne chiedo uno per noi papà. Tutti quei sensi di colpa che confezioniamo in pacchetti dorati la notte della vigilia, portali via con te. Perché a noi non servono, e ai nostri figli nemmeno. Lasciaci solo la voglia di stare insieme, la forza per fare quel che va fatto, la consapevolezza che le due cose non sono in contraddizione. Sarà tutto quello che ci serve, e buon Natale!